Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi parlo di un romanzo ambizioso di un noto scrittore molto legato a Milano, Luca Doninelli. Il suo libro si intitola Le cose semplici, pubblicato da Bompiani, 838 pagine, 23 euro. Un libro apparentemente impegnativo, come dice anche il numero delle pagine, un libro che l'autore considera quello della sua vita, nel quale dunque possiamo ritrovare tanti temi che si intrecciano e che abbiamo conosciuto nelle opere precedenti, temi come Milano, l'amore, la fede, di Firenze. Luca Doninelli qui riprende un artificio letterario manzoniano, cioè la scoperta di alcuni scartafacci, in questo caso di 5 quaderni scritti dal protagonista della storia ma pubblicati dal figlio. L'ambientazione è a Milano nel 2039, una Milano post-apocalittica dopo una sorte di fine del mondo, del nostro mondo, che ha lasciato il pianeta povero e semidistrutto. Tra queste macerie sopravvive Dodò, il protagonista, un letterato figlio a sua volta di un intellettuale che godette solo verso la fine della sua vita di una qualche fortuna, sposato a una bellissima e genialissima matematica francese che a un certo punto andrà negli Stati Uniti a proseguire la carriera scientifica dopo aver ricevuto giovanissima il più prestigioso riconoscimento in ambito matematico, e cioè la Fields Medal. Purtroppo gli eventi separeranno i due coniugi. Superare l'Atlantico diventa impossibile, anche le comunicazioni cadono, e dunque Dodò vaga per Milano appoggiandosi a qualche vecchio amico, coltivando un amore con una ragazza giovanissima che gli darà un figlio, il figlio tanto atteso dalla moglie, e scrivendo appunto questi quaderni di memoria grazie a un deposito segreto di carta, inchiostro e penne ritrovato in un magazzino di una cartoleria. Ma non sarà questo figlio a riesumare le carte, ma il figlio di un amico della moglie, appunto Chantal, quella che è rimasta negli Stati Uniti, che avrà anche il figlio che aveva tanto atteso da Dodò, di cui era incinta al momento della separazione. Chantal fa carriera negli Stati Uniti, fonda un'università per trasmettere il sapere, alla fine si ricongiungerà col marito, una storia dunque apparentemente non troppo complessa ma ricca di fili, di intrecci, di storie, di spunti, di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera Luca Doninelli. Buonasera, buonasera Salvatore. Luca Doninelli, presentando il suo libro poco fa, ho ricordato che lei ha definito questo il libro della sua vita. Ma ci si può, uno scrittore, anche uno scrittore piuttosto giovane come lei, considerarsi arrivato con un libro? Ah beh, certo no, no, no, no, no. Io lo chiamo il libro della mia vita nel senso che ci ho messo una quantità enorme di tempo a pensarlo, a scriverlo, e perché diciamo è un libro di svolta, nel senso che mi ero stufato di scrivere come scrivevo prima e volevo fare qualcosa di nuovo, solo che per fare qualcosa di nuovo e di bello insomma ci ho impiegato un po' di anni. Posso anche datare dal giorno in cui intorno al 2004 Claudio Magri mi disse: ma perché invece tu di scrivere sempre col freno tirato non lasci andare un po' il freno? Ecco, diciamo da lì è nata un po' l'idea di cambiare più, per cui io lo chiamo il libro della vita prima di tutto perché ci ho lavorato tanto e secondo perché mi sono imposto un po' un cambiamento. Io stesso mi dicevo: ma insomma, fuori di tutti questi libri di Doninelli, ma sono così interessanti, allora ho cercato di farne un altro. Uno degli elementi nuovi che colpiscono il lettore in questo libro è l'ambiente nel quale lei colloca la sua vicenda, un ambiente potremmo definirlo post-apocalittico. Che cosa rappresenta questa condizione? È un presagio o piuttosto uno scongiuro? Ma è una cosa di cui ho parlato tante volte con tanti amici, no? Diciamo la scelta dell'elemento distopico diciamo non è nuova nella letteratura di oggi, insomma si fa spesso. Ecco, nel mio caso era chiedermi: sì, ma qual è il vero pericolo che noi corriamo, insomma, no? Io siccome non ci ho mai creduto molto né nell'esplosione simultanea di tutti i vulcani della Terra, né nello scioglimento dei ghiacciai, né nell'invasione delle orde islamiche, temo di più invece in una sorta di sfascio, di distruzione, di devastazione del patto sociale. Quando quel pilota insomma è andato a schiantarsi perché si voleva suicidare ammazzando 150 rotte persone, mi sono detto: accidenti, se dobbiamo chiedere la perizia psichiatrica del pilota tutte le volte che dobbiamo salire su un aereo, è finita la nostra civiltà, è finito il motivo per cui c'è qualcuno che fa aerei, qualcuno che li fa le linee, qualcuno che ci vuole, insomma. e se moltiplichiamo questo per tutto il resto, per tutta diciamo, la complessità della vita, dicevo, mi pare che questo collante chiamiamolo patto sociale, insomma, no? Poi, come tu sai, io sono un tocquevilliano e quindi puoi capire probabilmente meglio di me quello che intendo in questo caso. Infatti tu indichi come segnali di questo collasso due elementi: la fine della fiducia, di cui ci hai già parlato, e lo sfascio della mente umana, come li definisci? Sì, lo sfascio della mente umana, che io non so se collocare prima o poi, ma a un certo punto in un brano che ritengo molto significativo, anche se, diciamo, le già molte recensioni uscite non se ne sono accorto. Ho detto: il grande problema non è che non ci sono più orologi e quindi non sappiamo più che ore sono, è che la domanda che ore sono aveva smesso di avere senso quando gli orologi funzionavano ancora, perché se io non mi fido più di te e della tua risposta o di quello che c'è sul quadrante, vuol dire è un po' finita la storia. Per cui c'è come uno sfascio delle strutture logiche. Dal punto di vista letterario c'è anche un po' di Cormac McCarthy in questa visione? No, a me la strada, se devo dire che è il libro più distopico di Cormac, è anche quella che mi piace di meno. Io penso che ci sia in tutti gli scrittori che scrivono oggi qualcosa di Cormac McCarthy, per il semplice motivo che mi sembra il primo grandissimo scrittore che scrive dopo un'epoca in cui sostanzialmente il problema dell'umanità era un problema condiviso. Faccio un esempio: Philip Roth o Saul Bellow, no? Cioè l'uomo dopo il nucleare, l'uomo nell'epoca atomica, l'uomo dopo la fine, dopo Hiroshima, dopo Auschwitz, no? Quindi il che ne sarà di noi, a un certo punto smette di esserci il che ne sarà di noi, finisce quel tipo di letteratura lì e comincia un altro tipo di letteratura, di cui sicuramente Cormac McCarthy è un pioniere, cioè uno che va a scavare, insomma, proprio come una specie di archeologo dentro le strutture che hanno tenuto in piedi e che tengono in piedi una società, e si domanda, esistono, diciamo, quelle che noi chiamiamo le condizioni giuridiche e quant'altro, insomma, della permanenza di una società, ma è vero che sussistono oppure no? E questo è tutto un lavoro al quale lui, insomma, ha calcolato, senza domandarsi più se eravamo nell'epoca post-atomica o no. Ecco, in questo senso tutti siamo grati a Cormac McCarthy. Una delle protagoniste del suo romanzo è Milano, una città che lei definisce, almeno negli anni in cui funzionava, una città inquieta, ma che era amabile in questa irrequietezza. Che cosa rimane di questa Milano nel libro e nella realtà? Ma nel libro rimane che rimaniamo noi, rimane quello sparuto gruppo di persone che ancora desidera non mettere la parola fine, rimane in noi, rimane il segno lasciato dai nostri padri fondatori. Io continuo a pensare, non so se tu sei d'accordo, perché tu Milano la conosci meglio di me, insomma, no, ma i nostri grandi padri, lasciando stare Sant'Ambrogio, che forse è troppo indietro, io non riesco a arrivare fino a quel punto, ma Leonardo, San Carlo e Francesco Sforza, soprattutto Leonardo e San Carlo, sono come i due grandi pilastri, i due grandi fondamenti della nostra città. C'è un'irrequietezza fattiva, un'irrequietezza che non si ripiega su di sé, che non si deprime, ma che dice: bene, allora cosa facciamo, no? Per cui questi stanno a Milano, è un posto, la Milano che descrivo io, abbastanza distrutta, abbastanza devastata, un posto, insomma, dove non è tanto bello abitare, però c'è un sacco di gente che dice: boh, che cosa facciamo? Allora, c'è chi va nei fossati a pescare i gamberi, c'è chi fa, insomma, tante cose, e soprattutto c'è ancora in atto il tentativo di trasmettere delle conoscenze. Una delle protagoniste in carne e ossa del libro è la matematica di genio Chantal, che associa a questo genio matematico una profonda fede religiosa. Ecco, che cosa rappresenta questo connubio? Ma questo connubio per me rappresenta la questione etica fondamentale del libro, cioè abbiamo una persona che a 7 anni risolveva l'equazione di secondo grado, a 15 insegnava all'università, e che da 21 anni, quando vince la Fields Medal, non può più occuparsi di matematica. Quindi il connubio di una grande fede religiosa, cioè di un grande appoggio di questo tipo, unito a una matematica che lei non può più praticare, a un certo punto pone la questione: ma un uomo, un essere umano, può realizzarsi pienamente come uomo quando sembrano venir meno tutte le condizioni che dovrebbero portare a questa sua realizzazione? Cioè, se io non potessi più fare lo scrittore, che ne sarebbe di me? Ecco. E quindi mi sono un po' identificato in questo personaggio, chiedendomi: ma può ugualmente il successo vero, che non è quello di guadagnare tanti soldi o di finire sulle copertine dei giornali, ma il successo con se stessi, è possibile ancora? E questa è la domanda a cui tento di rispondere attraverso la figura di questo, che è evidentemente il protagonista del libro. Grazie a Luca Doninelli, autore di Le cose semplici. Buona serata. Grazie a lei, buona serata. Una brevissima interruzione, ci sentiamo fra un attimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi presento adesso un altro romanzo che ha avuto un enorme successo nei Paesi Bassi, dove è stato pubblicato per la prima volta, e di là è dilagato in tutto il mondo, forse anche per il tema che affronta, un tema molto delicato che fa molto discutere, quello della cosiddetta dolce morte, il diritto che molti vorrebbero riconosciuto a porre fine alla propria vita quando essa si fa troppo dolorosa o penosa. E su questo ha scritto il libro Edric Groen, che è un signore di 83 anni, un esordiente. Il suo libro si intitola Piccoli esperimenti di felicità, è pubblicato da Longanesi, 330 pagine, 14,90 euro, ed è tradotto da Giorgio Testa. Questo non è un libro di filosofia su un tema così difficile e anche un po' malinconico, ma invece un romanzo molto ironico sotto forma di diario ispirato alla propria esperienza. Il signor Groen diventa ospite di una casa di riposo, comincia a chiedersi appunto se valga la pena di continuare ad annoiarsi, e quindi chiede al medico appunto la pillola della dolce morte, che però metterà da parte, dandosi un anno di tempo per verificare se valga ancora la pena di vivere. Fonda il club dei vecchi ma mica morti, che si dedicano con impegno alla ricerca quotidiana di piccole felicità per allentare la tentazione di farla finita, e nel suo impegno non trascurerà di dare una mano anche all'economia olandese, come spiega per esempio in queste righe. Tanti sfuggono gli avvenimenti più grandi. Soltanto i piccoli dispiaceri vengono ancora percepiti appieno. Ci saranno sicuramente premi meno belli alla tombola se la Grecia fallisce. È stata l'analisi della crisi dell'euro da parte della signora Schouten. Per chi dà una vita lesina fino all'ultimo centesimo, una cosa come i 10 miliardi e passa di centesimi a cui ammonta il debito pubblico americano è incomprensibile. Ma anche per gli altri, con alcune decine di miliardi finirebbe la fame nel mondo e tutti avrebbero acqua pulita. E intanto gli americani sono in rosso per 1.000 miliardi di euro e continuano regolarmente a contrarre prestiti a botte di 50 miliardi circa. Ho intenzione di morire in rosso, ma non è mica così semplice. Ho ancora circa 8.000 euro sul conto, ma ovviamente non so quanto tempo ancora devono durarmi. Per ora il mio progetto è di rilanciare l'economia dei Paesi Bassi con una spesa aggiuntiva di 1.000 euro l'anno. Se non usciamo dalla crisi, certo non sarà colpa mia. Finché ci sono progetti c'è vita, conclude Groen, ed egli si atterrà a questa regola. Il libro di un altro anziano che non si arrende è quello di Giuseppe Sgarbi, 94 anni ben portati, che dopo l'esordio di Lungo l'argine del tempo ha pubblicato Non chiedere cosa sarà il futuro con Schirà, 140 pagine, 15 euro. Questo è un libro sui tre elementi che hanno dominato la vita di Sgarbi senior: l'acqua, e quindi il fiume, il Po, la pesca, l'aria, la passione per il volo e per il cinema, il pensiero, e quindi gli incontri che Sgarbi ha avuto con i protagonisti della cultura del Novecento. E anche da questo libro abbiamo una lezione esemplare di passione e di attaccamento alla vita, come testimoniano per esempio queste righe. Da quando abbiamo smesso di vivere della terra e soprattutto con la terra, abbiamo perso il contatto con il senso delle cose, con il ciclo della vita in particolare. Abbiamo dimenticato che la vita somiglia a un arcobaleno. Si apre in un punto, attraversa il cielo e si chiude in un altro punto. E abbiamo anche dimenticato che l'arcobaleno non c'è se non ha piovuto. E dunque sarebbe bene che ci abituassimo all'idea che deve piovere perché le nostre esistenze possano colorarsi. Perciò Claudio Magris nella sua prefazione parla di un rapporto coniugale con la realtà in sé, con la vita che ha appunto Sgarbi, un forte amore oggettivo, aggiunge Magris, niente affatto incrinato dalla consapevolezza delle difficoltà e dei malintesi del vivere. Quello che conta per lui è vivere meglio, non di più. Oppure, come mi replicò una vicina di casa quando le dicevo di non dare troppo prosciutto al mio cane, si ricordi, professore, vita larga, non lunga. Un grande vecchio per l'epoca, oggi sarebbe quasi un giovanotto perché morì a 62 anni, fu Gino Olivetti, vissuto tra il 1880 e il 1942. Questa è una figura da riscoprire solo lontanamente legato alla famiglia dei celebri imprenditori piemontesi. Gino fu un esponente importante anch'egli della borghesia torinese, ancorché fosse nato urbino ed ebraica, e infatti morì in esilio in Argentina, dove si era rifugiato dopo l'emanazione delle leggi razziali. Olivetti fu un anti italiano, un campione di quell'Italia onesta e fattiva che vorremmo, così lo presenta Giordano Bruno Guerri nella prefazione alla biografia di Gino Olivetti, che porta appunto questo nome, scritta da Silvia Granata e Paola Rapini. Sottotitolo è Biografia dell'altro Olivetti, un protagonista della storia italiana, e pubblicato da Le Château, 356 pagine, 18 euro. Fra le varie cariche che Olivetti ricoprì ci fu quella di primo segretario della Confindustria, ma Olivetti fu anche docente universitario, collaboratore della stampa, deputato, e fu eletto per un piccolo partito, il Partito Liberale Economico, e fu l'undicesimo presidente della Juventus, anzi fu l'ultimo presidente della Juventus prima che questa fosse acquisita dagli Agnelli. Insomma, Olivetti, Gino Olivetti, fu un protagonista del mondo industriale, in particolare del periodo del fascismo. All'inizio anch'egli coltivò la speranza che Mussolini potesse servire a rimettere un po' d'ordine per poi essere costituzionalizzato, messo da parte. Ma e dopo il delitto Matteotti fu lui che scrisse una famosa nota in cui la Confindustria invocava il ritorno alla legalità, un documento che venne consegnato dallo stesso Olivetti nelle mani del Duce senza molta fortuna. Le cose non andarono come Olivetti sperava, egli tenne un atteggiamento distaccato dal fascismo finché nel 1934 abbandonò la Confindustria, pur mantenendo varie cariche, compresa quella di deputato. E seguì anche la nascita dell'industria automobilistica fino appunto all'esilio, mantenendo tutte quelle caratteristiche che lo rendevano così inviso a Mussolini e che le autrici così riassumono: l'eccezionale intelligenza, la cultura, le doti esemplari, che erano una minaccia per l'affermazione di un modello di uomo fascista massificato e indottrinato. Certi uomini facevano pur paura al regime, e quindi Olivetti riuscì a tenere una posizione politicamente sfaccettata che le studiose qui esaminano a fondo, facendoci riscoprire appunto una figura capitale di quegli anni. Parlando di Olivetti, abbiamo parlato di grande industria e di calcio, e allora vi segnalo due libri collegati con questi temi. Il primo è La storia della Pirelli, Innovazione e passione 1872-2015, di cui autore Carlo Bellavite Pellegrini, docente della Cattolica di Milano, pubblicato dal Mulino, 838 pagine, 42 euro. Questa è una storia del grande gruppo industriale milanese, particolarmente interessante e attuale in questo momento in cui la Pirelli passa di mano, e qui sono messi in luce i vari aspetti di questa storia, non soltanto le notizie di carattere aziendale e finanziario, ma anche per esempio tutta l'attenzione legata al ruolo che Pirelli ha svolto per la cultura d'impresa, un impegno di cui il famoso marchio Pirelli diventò simbolo internazionalmente riconosciuto. Invece, a proposito di calcio di Juve, vi segnalo Non dire gatto, La mia vita sempre in campo tra calci e fischi, avrete indovinato l'autore, Giovanni Trappattoni, che ha scritto questo libro con Bruno Longhi per Rizzoli, 300 pagine, 18 euro. Non dire gatto è la famosa espressione, c'è di Trappattoni, c'è anche una foto qui del 2011, quando l'Irlanda da lui guidata riuscì a cogliere un importante obiettivo e ottenne un importante risultato, e sul tabellone luminoso dello stadio comparve proprio la sua immagine tra pattoni con un gatto in mano. Congrats Trap, the cat is in the bag, il gatto è nel sacco. E qui nel libro parla della sua carriera e delle squadre con cui Trapattoni ha lavorato, tra cui la Juve, di cui l'allenatore scrive così. Fin da subito la squadra si dimostrò disciplinata e rispettosa. Era il famoso stile Juventus. Una cosa che avevo notato subito appena arrivato a Torino era la differenza di gestione della società rispetto al mio vecchio e pazzo Milan. Qui vigeva la riservatezza, non trapelava niente. Se c'era qualche screzio tra giocatori in allenamento, interveniva subito Boniperti in persona e mi dava una mano a rimettere le cose a posto. Ma soprattutto, a nessuno veniva in mente di andare a spifferare pettegolezzi alla stampa. A Milano era il contrario. Era tutto un giro di giornalisti amici del Milan o dell'Inter che non vedevano l'ora di strappare qualche retroscena. Molti erano in realtà amici finti, amici solo per rubarti qualche titolone. E a questo punto... il confettino. Non un pallone, ma un palloncino. Troviamo nel libro Il sabato è come un palloncino rosso di Riccardo Linier-Siri, che è un autore e disegnatore argentino, pubblicato dalla Nuova Frontiera Junior, 34 pagine, 15 euro, tradotto da Marta Corsi. E anche un sabato pomeriggio in questo libro può ispirare la fantasia di due fratellini. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il titolo di un famoso personaggio televisivo, Serena Dandini, che ha scritto Il futuro di una volta, pubblicato da Rizzoli, 326 pagine, 19,50 euro, un libro sulla generazione dei 60-70enni che si guarda indietro e considera con malinconia il futuro dei più giovani. Poi vi segnalo l'ultimo titolo di un filosofo molto noto anche a largo pubblico, Emanuele Severino. Il libro si intitola Dike, pubblicato da Adelphi, 374 pagine, 38 euro. Dike è la stabilità del sapere, che per il filosofo si identifica con l'essere e ha dominato l'intero corso della filosofia occidentale. Infine, agli scout, ai genitori di scout e agli appassionati di scout, segnalo Il metodo scout di Robert Baden-Powell, l'inglese che fondò nel 1910 appunto il movimento scoutistico. Questo libro è pubblicato dalle Edizioni dell'Asino, 134 pagine, 18 euro, ed è curato da Giulio Vannucci. Come spiega Goffredo Fofi nell'introduzione, è utile, anzi necessario, ripercorrere alla fonte il pensiero di Baden-Powell, che si rivela di sconvolgente attualità. Secondo Fofi, infatti, lo scoutismo libera i ragazzi dalla chiusura delle famiglie, dalle rigidità della scuola, dalla pubblicità dei mercati, dall'inquinamento delle città, li riporta nella natura e li aiuta a orientarvisi e a goderne rispettandola, li affida ai fratelli maggiori, permette loro di mettere alla prova il loro corpo rafforzandolo, li stimola al confronto nel lavoro di gruppo, i maschi con le femmine, i piccoli con i più grandi, e lo stesso fa per le varie etnie e fedi. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Filippo Ureggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.